30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Quattro paesi africani, quattro ospedali principali, 22 centri di salute periferici, 1.300.000 abitanti coinvolti, un'unica parola d'ordine, prima le mamme e i bambini per garantire l'accesso gratuito al parto sicuro e alla cura del neonato in Africa. L'obiettivo? Raddoppiare in 5 anni con un impegno di oltre 5 milioni di euro il numero dei parti assistiti, passando dai 16 ai 33.000 l'anno in 4 distretti di Angola, Uganda, Tanzania ed Etiopia. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera vi raccontiamo una storia africana che riguarda molto l'Italia, gli italiani, in particolare un gruppo di italiani che da anni lavora nel continente africano. Il nostro ospite di questa sera è Don Dante Carraro. Don Dante Carraro è il direttore di QAM, Medici con l'Africa, che da Padova, ormai da 60 anni, lavora su progetti sanitari. Innanzitutto buonasera. Buonasera, buonasera, grazie a voi anche per questa opportunità. Allora, opportunità che in realtà noi vogliamo dare a quelle 20.000 persone che mi ha raccontato, che ogni anno sostengono il vostro lavoro. 20.000 persone sono tante e forse vale la pena di raccontare proprio quello che state facendo in questi giorni quando aprite un progetto nuovo, ulteriore, con delle finalità ambiziose. Sì, la finalità è proprio questa, di riuscire a rispondere al grosso bisogno che si concentra attorno al momento più caro della vita, al momento più prezioso della vita, che è la nascita, e cioè la salute della mamma e del bambino, del neonato in particolare. Sappiamo tutti che degli 8 obiettivi del millennio, 2 in particolare non si stanno toccando, non stanno migliorando, che è proprio quella della mortalità materna e quella della mortalità infantile. Perché? Perché non viene garantita alle mamme che devono partorire la possibilità di accedere a una struttura sanitaria e di essere curate e seguite in maniera adeguata, e dall'altra di seguire e curare e accompagnare il neonato che è appena nato. Allora, l'obiettivo che abbiamo è quello di, in 4 paesi africani, l'Etiopia è uno di questi qui dove ci troviamo, l'Uganda, la Tanzania e l'Angola, passando da attualmente un 16.000 parti assistiti che attualmente riusciamo ad avere, a più che raddoppiarli. L'obiettivo è in 5 anni portarli a 33.000, garantendo che cosa a queste donne, a queste famiglie? Un accesso gratuito al parto, perché il parto attualmente ancora, seppur poco, ma viene pagato da queste persone, da queste mamme, e la cura appunto del neonato. Questo è l'obiettivo che ci diamo. È un obiettivo sfidante, impegnativo, alto, fa un po' anche tremare, perché sappiamo quanto è difficile lavorare in contesti rurali dove noi lavoriamo, però dall'altra anche affascinante, stimolante, ecco, e vogliamo farlo proprio oggi che siamo in un periodo di crisi dove la tentazione è quella della chiusura, del dire non ce la facciamo, del dire i problemi sono tanti, del dire siamo in crisi. Ecco, noi proprio in questo contesto abbiamo deciso di lanciare questa proposta, che è una sfida per noi ma anche per tutte le persone, gli amici, quei 20.000 che continuano a credere in quello che facciamo. In questi giorni dunque in Etiopia, a Wolliso in particolare, abbiamo avuto modo di conoscere un centro medico davvero d'eccellenza, un centro medico che prevede tutte quelle specialità, tutte quelle strutture, insomma, che ci aspettiamo noi occidentali in un ospedale. Ho potuto osservare come appunto questo ospedale sia diventato un centro di riferimento, ma anche come voi lavoriate sul territorio. L'Etiopia, piccola scheda paese, un paese enorme, stiamo parlando di qualcosa come 2,5 volte la superficie italiana, 85 milioni di abitanti, dei quali l'85% sono popolazione rurale, e quando diciamo rurale intendiamo veramente campi, colline, bellissimo. L'Etiopia è un territorio in gran parte davvero di una bellezza spettacolare, ma con un problema di accessibilità ai servizi sanitari molto elevato. Allora, voi lavorate sulla rete, cercate di spingere dal centro sanitario al villaggio lontano, non tanto perché si possa fare, perché non avrebbe senso quello che si fa in un grosso ospedale nel distretto locale, ma perché ci sia una rete di allerta, perché ci sia una struttura che metta le persone e la popolazione locale nelle condizioni di riconoscere anche i problemi. Cito un dato: MMR, Maternity Mortality Rate, è un numero, diciamo, internazionale, è di fatto una classifica drammatica, quando i numeri sono alti, della mortalità materna. E come mi hanno spiegato i medici in questo giorno, mortalità materna non significa al parto, ma riguarda prima e 6 settimane dopo il parto. Insomma, questo numero in Etiopia viaggia intorno a 660. Per darvi un'idea, negli Stati Uniti è a 14, in Italia per fortuna tra il 4 e il 2. Ecco, questo problema, questa tragedia di fatto incide sulla società e in alcuni casi è cinico, forse brutale dirlo, ma la morte non è la soluzione peggiore. Assolutamente così, fra l'altro, appunto, quando non c'è l'esito fatale, tante volte, le donne poi subiscono gravi disabilità, le cosiddette fistole vescico-vaginali, che sono un problema personale e sociale di relazione pesantissimo per queste ragazze giovani che vengono a morire. Prima accennavi alla rete, è fondamentale. Fondamentale. Un ospedale come quello di Wallis attualmente riesce a rispondere e a gestire 3.000 parti all'anno. L'obiettivo è quello di farli crescere, questi parti assistiti. Allora è evidente che non può salire il numero dei parti che vengono accompagnati in ospedale, motivo per cui è assolutamente necessario dialogare e rinforzare il network, la relazione con le strutture periferiche, con il territorio. A questo punto aggiungo un dato che è uno degli obiettivi di questo nostro progetto. In Etiopia, parlo proprio dell'Etiopia, abbiamo una ostetrica, non un ginecologo, una ostetrica ogni 20.000 mamme che devono partorire. È evidente che a fronte di questi numeri anche il tentativo che stiamo facendo di rinforzare la rete territoriale periferica non funziona se assieme a tutto questo non mettiamo in atto, come abbiamo iniziato a fare, una scuola di formazione specifica per ostetriche. L'ospedale di Wolisso ha collateralmente al servizio di assistenza sanitaria che sta facendo anche una scuola di formazione, in questo senso unica nel paese, che forma ostetriche locali, in modo che nel giro di questi 5 anni, man mano che queste ostetriche vengono fatte, possono essere posizionate in questi centri sanitari periferici e svolgere quella opera di filtro, di selezione dei casi che possono essere trattati nelle strutture periferiche. Un parto normale può essere gestito da un'ostetrica locale, può essere fatto fuori, deve essere fatto fuori anche di un ospedale, avendo un sistema di riferimento comunque sempre funzionante, e selezionare invece le gravidanze cosiddette a rischio per portarle, quelle sì, in una struttura più raffinata, più attrezzata come quella dell'ospedale. Ecco, quanto costa questa strategia? Voglio affrontare subito questa questione, poi magari vi facciamo sentire gli ascoltatori che nel giorno mercoledì, nel giorno della presentazione di questo progetto, ci sono stati anche ospiti molto importanti: il ministro della sanità dell'Etiopia, Romano Prodi, ovviamente ex primo ministro italiano, ex presidente della Commissione europea, che ha detto qualcosa. Anzi, facciamo così, sentiamo subito Romano Prodi, perché sostenere lo sviluppo africano. Lo sentiamo e poi torniamo insieme. Ma proprio perché l'Africa è il continente dimenticato che da qualche anno offre speranza. Allora è il momento di darci dentro, no? È il momento di aiutare. In che modo? Con la fondazione piccolissima, no? in cui lavoro, operiamo soprattutto per la cooperazione politica fra i diversi paesi, perché l'Africa è così frammentata che se non si unisce, se non lavora assieme, non riuscirà a fare in modo che questa fase di sviluppo che c'è possa continuare in futuro. E noi abbiamo bisogno di 50 anni di sviluppo continuo dell'Africa per cominciare a cambiare anche di un po' il continente, perché partiamo da livelli così bassi che 10 anni di sviluppo non bastano. Ecco. In questo senso mi sembra il momento di lavorare per l'Africa. Oggi siamo qui col QAM, che è il simbolo, tra i simboli migliori di una ONG, ma ce ne sono tante che agiscono nel campo della sanità, nel campo dell'istruzione. Ecco, il problema non era sul giudicare l'eroismo delle singole, delle singole istituzioni, no? Ma la politica di paese, che è un'altra cosa, cioè di organizzare insieme i singoli interventi per dare continuità e forza a un aiuto. Romano Prodi dice: è proprio questo il momento di investire in Africa. Allora, la domanda che è rimasta sospesa era: quanto costa e in fondo perché investire adesso che l'Italia stessa è in difficoltà economica? Sì, do due numeri. Il primo è, noi l'abbiamo calcolato, cosa costa garantire un parto gratuito, trasporti e poi anche l'accesso alla struttura ospedaliera è sicuro, quindi garantire la qualità di base, la qualità minima per un parto. Ecco, l'abbiamo calcolato e costa 40 euro, tutto compreso, personale, equipaggiamento, farmaci, assistenza, sala operatoria nel caso di necessità e così via. Che è una cifra anche abbordabile a qualcuno che volesse nel giro di un anno dire: io faccio la mia parte e sostengo almeno una mamma che partorisca. Ecco questo. E complessivamente l'abbiamo studiato in questi 4 paesi, in questi 5 anni, sono 5,5 milioni. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati e questo è il costo complessivo di questo programma di carattere generale, al cui chiamiamo a raccolta istituzioni pubbliche, istituzioni private, enti locali, singoli cittadini, singole persone che credono a questo progetto. 30 minuti in cronaca. Cari ascoltatori, ancora un ben trovato questa sera, 30 minuti in cronaca, stiamo parlando di Africa, lo facciamo con Don Dante Carraro che è il direttore di Medici con l'Africa, QAM, e ci stavamo interrogando sul senso, sul perché dell'investimento sanitario italiano oggi in Africa. Per 2 motivi, uno è un motivo credo tecnico e il secondo invece è più profondo, è più culturale, più esistenziale e di prospettiva. Quello più tecnico è questo qua: non c'è dubbio che il continente africano sta crescendo, i paesi stanno scalpitando, il paese come un'Etiopia che 10 anni fa aveva 60 milioni di abitanti ne ha 85 come tu prima accennavi, e sono realtà che anche economicamente stanno migliorando, seppur con molte difficoltà, con tanti problemi, eccetera. Il poter intessere relazioni con questi paesi, come accennava il presidente Prodi, vuol dire allargare prospettive di sviluppo anche per il nostro paese, sia a livello nazionale, ma anche a livello europeo. E allora l'asset, un pilastro come quello della sanità diventa un fulcro attorno a cui creare poi altri canali di sviluppo, altri canali relazionali che sono commerciali anche, che sono di un buon rapporto di partenariato industriale, commerciale, di possibilità di crescita. Ecco. Allora, proprio in un momento di crisi è il momento non di chiudere anche le frontiere di un paese come l'Italia, ma di allargarle e di credere al grossissimo know-how, alla grossissime competenze, capacità che l'Italia ha e continua ad avere. È un patrimonio prezioso che tante volte a me dispiace, perché ho l'impressione che non lo stiamo mettendo a frutto, che l'investimento universitario dei nostri giovani, noi abbiamo anche a Wallis, abbiamo un team, oltre ai 7 medici locali, abbiamo 3 figure professionali, professionali, quarantina d'anni, che lavorano a livello direzionale una e altre due, una in pediatria e l'altra in medicina interna, no? Ma abbiamo due specializzandi, uno in pediatria e l'altro in chirurgia. Sono giovani professionisti italiani che, come dire, mettono a disposizione di un paese come l'Etiopia, mentre mettono a disposizione queste risorse, contemporaneamente anche crescono, si sviluppano, diventano più strutturate, più forti. Insomma, ecco, queste competenze, queste capacità, poterle mettere in gioco, poterle far fruttare per il nostro paese in questo momento. Questo è un primo aspetto. Il secondo è invece, in un momento in cui c'è crisi, rischiamo di cadere nell'errore che, per esempio, la solidarietà, la vicinanza con chi è più debole, con chi è più fragile, penso proprio a un paese come l'Etiopia, non sia per noi il momento di farlo, perché siamo in crisi, perché siamo in difficoltà. Quasi legare la nostra solidarietà al PIL, quasi essere preoccupati di dire no, non ce la facciamo, adesso dobbiamo, no, dopo verrà anche la solidarietà. Invece io quello di cui sono convinto, ma profondamente convinto, è che la solidarietà, cioè l'attenzione nei confronti del più debole, del più povero, quindi anche un'attenzione nei confronti di un continente come quello africano, di fatto debba essere un elemento costitutivo del vivere personale, del vivere familiare, del vivere sociale, perché ci aiuta a riscoprire quelle energie nascoste che ci sono dentro di noi e quel patrimonio valoriale. La crisi, ripeto, prima che essere una crisi economica, è una crisi di valori, di quello che ci dà forza, di quello che ci fa riscoprire la dignità, l'energia, la potenzialità che ci sentiamo dentro. Ecco, in questo senso, allora, anche lì, proprio dove c'è la crisi, rilanciare in termini di valori che ci tengono in piedi, che ci danno la forza, quello io credo che debba essere, che possa essere una grossa opportunità anche per il nostro paese, proprio adesso che c'è la crisi. Faccio un ultimo esempio. 1950, appena finita la guerra, povera gente, l'Italia semidistrutta, porca la miseria, esce e viene fuori il cuore. Cioè, nel momento della crisi, la capacità di dire allarghiamo gli orizzonti. Nasce il QAM 1950 e allarga le frontiere. Medici italiani che cominciano a muoversi, potevano tranquillamente fermarsi in Italia, eccetera, e allargano frontiere e nasce l'esperienza splendida, meravigliosa, ecco, di un organismo come il QAM. Lì dove c'è più crisi, avere il coraggio di rilanciare. Fa bene prima di tutto anche al nostro cuore, al nostro vivere, al nostro senso dell'esistere. Ovviamente avrete colto anche la passione con cui il direttore di Medici con l'Africa racconta l'esperienza di 60 anni. È una storia ricchissima, forse avrete visto, letto magari, o potrete farlo. Il Bene Ostinato è anche un libro scritto da Rumiz ormai un anno e mezzo fa, se non sbaglio, che racconta proprio in questo bellissimo titolo questa esperienza, che devo dire è una esperienza che nasce in ambiente cattolico a Padova, ma che è totalmente aperta a 360 gradi alle diverse idee, ispirazioni, insomma, con questo progetto comune che porta davvero lontani, come in questo paese, e poi diventa molto pratico. Tra l'altro, Don Dante è cardiologo? Non sono un cardiologo, sì. Insomma, di una struttura con un livello di competenze e specialità molto importante, che forse per questo riesce ad affermarsi in tempi complessi. Un'ultima questione riguarda, siamo partiti dai 20.000 e dai finanziamenti. Strutture come QAM e non solo si reggono di fatto su migliaia di piccoli, medi, a volte benvenuti grandi finanziamenti. Cosa succede in un tempo come questo e dove stiamo andando dal punto di vista? Perché crescere in questi progetti significa avere bisogno anche di maggiori risorse. Sì, noi riguardo a questo stiamo insistendo su due grandi pilastri. Uno è quello della competenza, da una parte, e l'altro è sempre su questo primo grande pilastro, quello dei risultati, cioè mostrare alla gente le buone pratiche. È vero che lavorando bene, lavorando con Medici con l'Africa, lavorando insieme, è possibile ottenere dei risultati significativi di buone pratiche. Noi sappiamo che l'Africa è complessa, lavoriamo in 7 paesi dell'Africa subsahariana, sappiamo che non riusciamo a risolvere i problemi della, però sappiamo anche che lì dove siamo è possibile ottenere dei buoni risultati. Questi risultati vanno mostrati, va sfatata, va scardinata la logica per cui tanto in Africa non cambia nulla. Non è vero, l'esperienza di ieri a Wolisso, insomma, dimostra che è possibile ottenere dei buoni risultati, delle buone pratiche che vanno diffuse. Questo è un primo grande pilastro, perché vedo lì dove dimostri questo coaguli anche donatori, istituzioni, eccetera. E dall'altra la motivazione, ecco quello che dicevo prima. Rumiz la esprime così: abbiamo perso in Italia la voglia di cantare. Non riusciamo più a cantare. Io credo che recuperare questo entusiasmo anche come paese nasca dal fatto che nel patrimonio valoriale della nostra vita, della nostra esistenza personale e comune, civile insieme, tutto questo nasca quando recuperiamo valori fondamentali come quello appunto della solidarietà nei confronti del più debole, del più vulnerabile, del più povero. Ecco, in questo senso sono i due grandi pilastri su cui siamo convinti di fondare il nostro essere QAM e di guardare con coraggio il futuro che ci aspetta. Grazie a Don Dante Carraro, lo ricordo, direttore QAM Medici con l'Africa. Tutte le informazioni peraltro lo trovate su un ricco sito www.mediciconlafrica.org. Per quanto mi riguarda vi auguro un ottimo fine settimana, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre sabato prossimo alle 19:30.